falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo una storia che arriva da molto lontano. È la storia di una donna. La storia di una donna nata nel 1773 nello stato della Virginia. È la storia di una schiava. È una storia che incarna tutte le contraddizioni degli Stati Uniti, ma soprattutto, ripeto, è una storia di donne che è stata scritta da una grande donna, almeno scritta per noi, che è Francesca Del Rosso, e quindi in qualche modo è una puntata che le dedichiamo, essendo una persona che si è occupata molto di donne e di diritti di donne, ma anche di dignità di donne. Bene, parliamo di America, parliamo del paese delle libertà, ma che è stato anche un paese che per secoli si è retto sulla schiavitù. Oggi raccontiamo Sally Hemings, schiava, ma anche amante del terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson. Went down to the River Jordan, where John baptized three, where I walked the devil in hell. Quella che sentite è una parte della colonna sonora di 12 anni schiavo, il film del 2013 di Steve McQueen che ha vinto 4 premi Oscar. Un film che racconta tutta la brutalità della schiavitù, esseri umani comprati in Africa da mercanti per essere rivenduti, utilizzati come servitori, raccoglitori nelle piantagioni di cotone, di tabacco, di zucchero, di caffè. È una pratica che si diffonde già nel 1619 dalla Virginia a quelle che allora erano le altre colonie inglesi, perché l'indipendenza degli Stati Uniti, lo ricordiamo, arriverà un secolo e mezzo più tardi. Insomma, le condizioni di vita degli schiavi dipendevano sostanzialmente da quel minimo di grado di umanità che poteva avere il padrone, che disponeva della loro vita e della loro morte. Il prossimo servo che non obbedirà al suo padrone riceverà 50 frustate. È nelle scritture. Non è giusto come tratti i lavoratori. Loro sono miei. Lo dici con orgoglio. È un dato di fatto. E sì, è il padrone a decidere quanto e come lo schiavo deve lavorare, senza nessuna paga naturalmente, quando può curarsi, sposarsi, pregare, mangiare, quando deve essere punito. Sono vietate ovviamente le unioni tra schiavi neri e donne bianche, ma le leggi non dicono assolutamente nulla dei rapporti tra i padroni bianchi e le schiave nere. E infatti, per tornare alla nostra protagonista di oggi, Sally Hemings, sappiamo che la nonna era una schiava venuta direttamente dall'Africa, quindi sradicata dal suo paese per andare negli Stati Uniti a fare la schiava, a lavorare. La madre, Elizabeth Hemings, era di proprietà di uno schiavista che si chiamava John Wales e che ebbe da lui diversi figli, perché così si usava. Wales aveva una famiglia bianca, una moglie, Martha Epps, da cui ebbe una figlia, Martha Wales, che finì in sposa appunto a Thomas Jefferson. Quindi anche Sally era figlia di Wales, in un certo senso era sorellastra di Martha. Insomma, avete capito di quale tipo di famiglia e di scenario stiamo per andare a parlare. È di Sally Hemings, sappiamo che nasce nella contea di Charles City in Virginia nel 1773, ha 5 fratelli, tutti figli della madre e del padrone di Wales, e dai documenti dell'epoca si può ricavare anche qualche altra importante informazione su di lei e sulla sua famiglia, come racconta la storica Lucia Stanton. Esistono pochissimi riferimenti riguardo il suo aspetto. Sappiamo che era bella, con lunghi capelli neri che le scendevano lungo la schiena. La sua era una di quelle strane situazioni familiari dell'epoca in Virginia, dove le persone possedevano delle proprietà e queste proprietà includevano delle persone, ma spesso non persone qualunque, bensì consanguinei. Who are your blood relatives? Eh sì, le persone possedevano delle altre persone che spesso erano consanguine. Però si sta determinando anche un altro fenomeno, che se il padrone bianco va con la schiava nera nasce un figlio mulatto, se l'altro padrone bianco va con la schiava mulatta, insomma piano piano, come dire, si schiarisce e tutto si complica ulteriormente. Sally è molto bella, ha dei lunghi capelli neri, una carnagione chiarissima, poteva essere scambiata quasi per una donna bianca. Alla morte di Wales nel 1773, tutti gli Hemings passano come parte dell'eredità alla figlia Martha, perché lì non si ereditavano solo immobili o automobili, come sarebbe successo dopo, si ereditavano le persone. E questa Martha è la moglie di Thomas Jefferson, quindi ci si trasferisce nella tenuta di Monticello presso Charlottesville in Virginia. Il nome deriva direttamente dalla parola italiana, indica una piccola montagna. La tenuta nasce su progetto dello stesso Jefferson, un uomo di cultura, di grandi interessi che spaziavano dalla politica alla legge, dalla scienza all'architettura. Ecco cosa scriveva Jefferson sulla schiavitù. Tutti i rapporti tra il padrone e lo schiavo sono un perpetuo esercizio delle passioni più violente, il dispotismo più rigido da una parte e la sottomissione più servile dall'altra. I nostri bambini vedono questo e imparano a imitarlo. Infatti l'uomo è un animale portato all'imitazione. Se un genitore non trovasse nessun motivo né nella filantropia né nell'amor proprio per contenere l'intemperanza della propria collera verso lo schiavo, dovrebbe sempre essergli sufficiente che suo figlio sia presente. Insomma, facciamo il punto della situazione. Quindi Jefferson è sicuramente un illuminato, una persona per bene, che scrive che il padrone non deve mostrarsi violento con lo schiavo. Tutto questo però non toglie che quello che viene considerato uno dei padri fondatori della nazione in realtà considera comunque la schiavitù un dato di fatto che non va messo in discussione, e è in contraddizione con quanto scritto nel 76 dallo stesso Jefferson nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, perché lì si legge: tutti gli uomini sono stati creati uguali, dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, e tra questi ci sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Ma quando Thomas Jefferson dice tutti gli uomini, intende tutti gli uomini bianchi, non intende gli schiavi, che lui definisce maleodoranti e intellettualmente inferiori. Non è ancora il momento di fare il ragionamento per il quale gli uomini, diciamo, sarebbero tutti uguali con pari diritti, no? Il falco e il gabbiano. Quindi cinque fratelli Hemings passano di proprietà e vengono promossi al rango di schiavi di casa. Questa è una cosa importante, cioè schiavo di casa vuol dire non devi più lavorare nei campi. È una, come dire, una delle punte massime alle quali poteva ambire uno schiavo in quegli anni. Ecco cosa racconta sulla particolarità di questa famiglia la storica americana Annette Gordon Reed, che ha riscoperto la figura di Sally, che le ha dedicato diversi libri. Di Sally Hemings molti sanno che era la figlia di John Wales, che era il proprietario di sua madre, Elizabeth Hemings, e di sicuro quando Jefferson sposò Martha Wales sapeva che Sally era sua sorellastra. Era solo una tipica famiglia complicata della Virginia. Sally e sua madre vennero a Monticello e divennero le domestiche preferite della casa di Monticello. Quindi la loro posizione privilegiata ha segnato la loro esistenza e quella dei loro figli. Divennero libere 40 anni prima della maggior parte degli afroamericani durante la guerra civile, sebbene rimasero schiave a tutti gli effetti, con tutti i problemi che questo comportava, ma potevano guardare al mondo in modo differente. Quindi il primo cambiamento per Sally è nel 1782. Dunque, lei ha 9 anni e si trasferisce nella tenuta di Thomas Jefferson, che ha 30 anni più di lei, e lei è una bambina, lui è un uomo a cui è appena morta la moglie. E nel 784 Jefferson viene inviato come ambasciatore in Francia. Prima parte James, che è il fratello, che diventa il cameriere personale del futuro presidente degli Stati Uniti, e 5 anni dopo, nel 1789, arriverà la bella sedicenne Sally. Arriva in qualità di bambinaia della figlia di Thomas e di Martha, però questa è, diciamo, è l'inizio della vera svolta della sua vita. La svolta comincia dal viaggio lunghissimo in nave, perché durante le settimane di navigazione Sally capisce di non essere più una bambina, la sua bellezza colpisce l'equipaggio, colpisce i fidati uomini che Jefferson ha inviato per prelevarla. È una giovane donna che non passa inosservata per la sua grazia, per la sua carnagione, per i suoi capelli. Insomma, è una di quelle ragazze in grado di far girare la testa agli uomini, di sconvolgere la loro vita. Ci sono donne così. Il secondo grande cambiamento portato da questo viaggio è il ricongiungimento col fratello James. Ricordate, è già in Francia lui a fare il cameriere personale di Jefferson. La verità che James racconta a Sally è quella che in Francia non esiste la schiavitù e che loro sono formalmente delle persone libere. Non ci sono documenti in grado di ricostruire lo stupore di Sally quando James le racconta come stanno le cose dall'altra parte dell'oceano, in Francia. C'è un libro biografico, La Virginiana, di Barbara Ribot, in cui l'autrice immagina una conversazione tra i due fratelli nascosti in una dispensa lontano da orecchie indiscrete. È un dialogo molto verosimile. In Francia la schiavitù è al bando. Siamo sul suolo francese. Questo significa che siamo emancipati, liberi. Non ti credo. Inventi tante storie. E invece è vero. Ci sono dei bianchi a Parigi, Londra e Boston che si battono per la libertà di tutti gli schiavi. Ma Thomas Jefferson non è tra questi. Ma non abbiamo che lui. Cosa faremmo da liberi? Cosa fanno le persone libere? Lavorano per sé, per le proprie famiglie, sono pagati per quello che fanno. Vanno dove vogliono, fanno quello che vogliono, votano, possiedono beni. Nessuno può imprigionarli, marchiarli, bastonarli, nessuno può venderli. Possono sposarsi, avere dei figli che appartengono a loro. Oh, Sally, dobbiamo rifiutarci di tornare in Virginia. Dobbiamo rimanere in Francia o in Europa. Beh, certo, è un mondo diverso, ma Sally dice non abbiamo che lui. Cioè, quando uno è in prigionia da generazioni, fatica anche a pensare a una vita autonoma. E questa è la scoperta di un mondo diverso, dove la schiavitù non esiste, dove la schiavitù non è un destino inevitabile. Comunque, la schiava e futura amante di uno dei padri fondatori degli Stati Uniti sta andando incontro al suo futuro. Il falco e il gabbiano. Ritroviamo la nostra protagonista Sammy Hemings, che arriva in Francia per prendersi cura di Polly, la figlia del futuro presidente americano Thomas Jefferson, figlia rimasta orfana perché la moglie è morta. In Francia inizia per la nostra protagonista Sally una nuova vita. Intanto si riunisce al fratello James, che è il cameriere, il cuoco personale di Jefferson. Intanto apprende che in Francia e in Europa non esiste la schiavitù, però diventa soprattutto l'amante di Jefferson, un padrone bianco, una schiava nera, anche se lei ha la carnagione molto chiara. Insomma, una consuetudine per le famiglie di schiavisti della Virginia, una consuetudine che Jefferson porta con sé anche in Francia. Sentiamo ancora Barbara Ribot dal libro La Virginiana. Forse l'avevo sempre saputo che mi avrebbe reclamato. Non era accaduto lo stesso a mia madre e alle mie sorelle. Lo osservavo di nascosto per vedere se lo sapeva, ma mi resi conto che lo avrebbe saputo solo all'ultimo momento. Potevo affrettare o ritardare quel momento, ma mi sentivo impotente a fermarlo. io ero certa di appartenere a Thomas Jefferson. E insomma, l'ineluttabilità del destino di uno schiavo, soprattutto se è una donna, è bella, è destinata al padrone. Lui è alle prese in Francia con un fastidio al polso e lei si occupa di lui con impacchi, massaggi quotidiani, una intimità che presto fa sì che i due diventino amanti, o meglio, il padrone diventa amante, concede alla schiava di diventare sua amante. Però il loro, ripeto, non è un rapporto d'amore, semplicemente accadeva, non viene mai meno il rapporto preesistente, cioè quello da padrone a schiava. La grande differenza è nella vita di Sally, che in Francia i servi vengono pagati, ricevono dei soldi, mentre in Virginia no, come ci racconta la storica Annette Gordon Reed. James e Sally Hemings sono in Francia. James aveva imparato a fare il cuoco e riusciva a ritagliarsi un salario decente, e anche Sally percepiva un salario per domestici al di sopra della legge in Francia, perché Jefferson pagava tutti una volta al mese, quando in Francia non si faceva così. In Francia un domestico, una serva, venivano pagati una volta all'anno. Si veniva pagati nel momento in cui si terminava il servizio. Il contratto durava 6 mesi, 1 anno, e solo alla scadenza si veniva retribuiti. Un pagamento molto ipotetico. Se si veniva pagati effettivamente o meno, nessuno poteva saperlo. Jefferson decise di seguire il metodo americano di pagamento una volta al mese. Quindi ci sono due persone che erano schiavizzate in Virginia che cominciano a percepire un salario, a gestire il denaro e possedere qualche cosa. Quindi diciamo uno straccio di tutela dei diritti del lavoratore. E in Francia la vita per Sally è molto diversa. In Francia ci si cura degli abiti, del cibo, si comincia addirittura a imparare a leggere e scrivere, poi lei addirittura impara il francese, poi c'è quel rapporto con il padrone, con Jefferson, che ha un'idea romantica dell'amore, può anche immaginare del sentimento tra i due. In realtà sappiamo intanto che Jefferson ovviamente aveva anche altre amanti, e che comunque il rapporto, per quanto d'amore potesse essere, era inficiato alla base dal fatto che lei era di fatto un oggetto di proprietà del futuro presidente. Anche perché noi sappiamo molto poco del rapporto che c'era tra loro due, non siamo entrati in camera da letto o tra le loro lenzuola. È difficile ricostruire una relazione intima e personale. Sappiamo però che è un legame che durerà 38 anni e dal quale nasceranno 6 figli, ma non c'è da meravigliarsi, è un comportamento che all'epoca è piuttosto naturale e diffuso. Naturalmente c'è un po' di scalpore, qualcuno prova anche a usare questa circostanza per mettere in difficoltà la carriera politica di Jefferson, ma i pettegolezzi finiscono nel nulla, non danneggiano la corsa alla presidenza degli Stati Uniti di Thomas Jefferson, ricordato ancora oggi come l'uomo dell'illuminismo, il padre fondatore della nazione. Insomma, il suo volto è ritratto sul monte Rushmore accanto a George Washington, a Abramo Lincoln, a Theodore Roosevelt. Insomma, lui è il principale autore della dichiarazione di indipendenza, eppure era uno che considerava la schiavitù una bestia inevitabile da tenere ben salda per le orecchie per non correre il rischio di essere sbranati. La relazione tra la giovane e bella schiava e Thomas Jefferson viene documentata per la prima volta solo nel 1998, secoli dopo, e sentiamo il biografo di Jefferson, John Meacham. La maggior parte degli esseri umani che conosco sono capaci di negare l'evidenza e di essere ipocriti. Io penso che le virtù di Jefferson fossero enormi, i suoi vizi fossero ugualmente enormi. Guardando la vita di Jefferson in modo profondo, si nota come questa fosse possibile solo grazie alla schiavitù. Era un giovane uomo di potere, con fievoli pretese di riformare le istituzioni, ma tutto sommato alla fine fu un personaggio intrappolato nelle circostanze economiche, culturali e politiche in cui era nato. Naturalmente naturalmente è un legame vergognosamente impari, perché è un legame che non condiziona per nulla la vita di Thomas Jefferson, mentre condiziona totalmente quella di Sally. A parte i sei figli, ma poi a segnare la vita della giovane schiava è il ritorno in Virginia. Nonostante in Francia non ci fosse schiavitù, nonostante ci fossero, come dire, delle speranze, nonostante avesse imparato il francese, lei decide comunque di tornare in patria da schiava al seguito di Jefferson. Quindi un cordone ombelicale perverso che lei non è in grado di recidere. Il motivo lo spiega la storica Annette Gordon Reed. Credo che fossero diversi i motivi. Aveva una famiglia in Virginia e c'erano delle grosse differenze tra l'essere una schiava ed essere uno schiavo, dettate prevalentemente dalle convenzioni di genere dell'epoca, dove le donne dovevano avere delle responsabilità particolari nei confronti della famiglia. Sua madre e sua sorella erano in Virginia. A quell'epoca nessuno rispettava una donna che abbandonava la sua famiglia. A woman who leaves her family. Insomma, Sally non se la sente di fare quel salto nel buio. Ha degli obblighi, o sente di avere degli obblighi verso le sorelle, verso i fratelli, e così torna nella piantagione in America. Schiava, cameriera personale, amante, madre di sei bambini che nascono tra il 1795 e il 1808, tutti figli di Jefferson, come due secoli più tardi ha dimostrato uno studio basato sul DNA dei discendenti. Nei documenti dell'epoca, negli scritti di Jefferson, che nel frattempo è diventato presidente degli Stati Uniti, non c'è nessun riferimento a Sally e neanche ai suoi figli. Gli storici non hanno potuto dimostrare nulla su questo rapporto. Sicuramente Jefferson non aveva un riguardo particolare, probabilmente non riservava neanche un trattamento diverso ai suoi figli rispetto agli schiavi. Insomma, Sally ha subito angherie tutta la vita, però non è mai riuscita o non ha mai voluto ribellarsi al suo destino. Ha accudito il suo vecchio amante, il suo padrone, fino alla fine dei suoi giorni. Gli ha dato sei figli che lui naturalmente non ha mai riconosciuto, probabilmente non ha mai neanche guardato in faccia o carezzato. È rimasta a vivere a Monticello anche nel periodo successivo alla scomparsa di Jefferson, che muore nel 1826, dopo peraltro avere dilapidato il suo patrimonio, dopo aver lasciato solo debiti. L'entità di questi debiti e il destino di Sally ce lo racconta la storica Annette Gordon Reed. At the end, when Jefferson dies, $107,000 in debt. Quando è morto, Jefferson ha lasciato $107,000 di debiti. E nel 1826, $107,000 erano un sacco di soldi, milioni di dollari odierni. Non ha mai liberato nessuno degli Hemmings, ma alla fine tutti loro appariranno come uomini liberi, anche se non sappiamo come sia successo. Sally Hemmings compare in un censimento speciale del 1833 come una donna mulatta che vive a Charlottesville dal 1826, l'anno della morte di Jefferson. Si tratta di un censimento speciale in cui si chiedeva alle persone di colore se volessero tornare in Africa. Go around and ask black people if they wanted to go back to Africa. Quindi Thomas Jefferson muore nel 1826 e i lavori di ristrutturazione della sua tenuta lo hanno portato alla rovina economica, e soprattutto prima di morire non fa quello che ci si sarebbe aspettati, cioè non libera Sally e i suoi figli, non li affranca, come si dice. Perché? Secondo l'interpretazione corrente degli storici americani, c'era una legge in Virginia che prevedeva che gli schiavi liberati dovessero lasciare lo Stato e ricominciare la loro vita da un'altra parte. Forse Jefferson ha agito, vogliamo sperare che abbia agito per lungimiranza, per evitare ulteriori problemi a Sally e ai suoi figli. Poi c'è un'altra spiegazione, una teoria che si basa sulla genetica, lo spiega la storica e genetista Helen Leary. Jefferson sapeva che qualunque figlio avuto da Sally sarebbe stato considerato afroamericano solo per un ottavo, perciò legalmente solamente un bianco. Quindi per le leggi dell'epoca nessuno avrebbe potuto ridurlo in schiavitù. Per questo non li ha liberati, perché in qualche modo erano già liberi, ma ha preteso che imparassero un mestiere in modo da potersi sostenere con le loro forze. Sì, dai, ci piace pensare che Jefferson, prima di morire, abbia avuto, insomma, almeno questa parvenza di umanità nei confronti di figli che non erano nulla, né dal punto di vista legale, né dal punto di vista affettivo. E i figli hanno per metà il suo sangue, cominciano, come dire, a diventare bianchi, e un bianco non può essere schiavo. Tutto questo, insomma, crea, come dire, una scappatoia burocratica attraverso la quale i discendenti riescono quantomeno a uscire dalla situazione di schiavitù. Ma che ne è stato poi dei suoi figli? Sappiamo che due morirono piccoli, altri tre, grazie alla carnagione chiara, si fecero passare per bianchi. L'unico che non fece il cosiddetto racial passing fu Madison Hemings, uno dei figli. Tutta la famiglia ricompare in alcuni documenti, in un censimento in particolare del 1833. Compaiono come persone libere definite mulatte. I documenti, il DNA, hanno permesso di ricostruire tutta la discendenza di Sally e Thomas. Molti di loro si ritrovano ogni anno alla tenuta di Monticello, come Amanda Bedford Grimm, che è la giovane mamma di due bambine. È davvero fantastico vedere tutti quanti insieme, è la tua vera vita. C'è una strana sensazione nel sapere che le mie figlie cresceranno vivendo tutto questo. E Sally muore a Charlottesville, in Virginia, nel 1835. La sua storia arriva fino a noi con tutto questo carico di contraddizioni, le contraddizioni stesse degli Stati Uniti d'America, dove la schiavitù viene abolita definitivamente solo dopo la guerra civile del 1865, grazie a Lincoln. In mezzo ci sono rivolte sanguinose degli schiavi che vengono represse con feroce violenza, e poi c'è un lungo periodo di vera e propria segregazione razziale che termina forse solo negli anni 60 del secolo appena chiusosi. È una storia, quella della questione razziale tra bianchi e neri, che l'America, gli Stati Uniti, non è ancora stata completamente in grado di risolvere. Insomma, la vita di Sally Hemings, una vita fatta di colpi d'ala silenziosi, di figli allevati senza che nessuno potesse sapere che erano i figli del presidente degli Stati Uniti, in un clima nel quale lei e i suoi figli erano di fatto di proprietà di Jefferson. Quindi, insomma, una vita dolorosa, emblematica e particolare. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite nei miei social, Facebook, Twitter, nei nostri social, quelli del Falco e il Gabbiano, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.